Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Oggi ricorre l'anniversario della strage di Capaci a Palermo, nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Oltre al pianto interiore di chi, come me, come noi, fa della legalità un principio di vita, verranno spese lacrime di coccodrillo a fiumi. Ma non è di questo che voglio parlarvi immediatamente, ma di una condanna a 20 anni di carcere, comminata pochi giorni fa, all'architetto Giuseppe Liga, arrestato 2 anni fa con l'accusa di associazione mafiosa perché ritenuto il successore dei boss mafiosi Salvatore e Sandro Piccolo. Liga, accusato di associazione mafiosa, estorsione di intestazione fittizia di beni, è stato invece assolto dal reato di intestazione fittizia. I PM palermitani Anna Maria Picozzi e Francesco Del Bene avevano chiesto la condanna a 27 anni, mentre i giudici della terza sezione del tribunale, presieduta da Fabrizio Lacascia, hanno confermato la sussistenza dei reati relativi all'associazione mafiosa e a 6 dei 7 episodi estorsivi contestati a Liga, ma non appunto la fittizia intestazione di beni aggravata. Assolti perché il fatto non sussiste gli imprenditori Amedeo Sorvillo e Agostino Carollo dall'accusa di intestazione fittizia aggravata in relazione alla ditta Euteco riconducibile a Liga. L'accusa aveva chiesto per ciascuno dei 2 4 anni e mezzo di carcere. Concessi una serie di risarcimenti, 15.000 euro ai commercianti costituitisi parte civile, 5.000 euro alle associazioni antiracket, 10.000 euro alla provincia e al comune di Palermo, 7.500 euro al movimento cristiano lavoratori, di cui Liga era reggente. Il processo si era aperto il 22 dicembre 2010. E torniamo a noi e alla strage di Capaci. Vi ho parlato di questo perché i passi avanti nella lotta alle mafie si potranno fare solo quando si colpirà la zona grigia, fatta di professionisti, imprenditori, politici, uomini dello Stato e banchieri conniventi, collusi o corrotti. Questa condanna lo testimonia, seppure in primo grado. Buona vita e a domani.